tutto è bene è quello che finisce bene. Dopo 4 anni di berlusconismo puro e duro, 4 durissimi anni di risse e mobilitazioni ideologiche, di insulti all'opposizione, di monopolio governativo delle comunicazioni pubbliche, di rifiuto a oltranza ad ogni tentazione di correttezza, l'Italia ha trovato, chi lo avrebbe mai detto, l'Italia ha trovato una sua sofferta solidarietà nazionale. E l'ha trovata come alla fine degli anni 70, in nome della fermezza. Sull'impegno rinnovato a non trattare con il terrorismo, in particolare a non pagare riscatti di scorta per i concittadini rapiti, si è cementato con le reciproche manifestazioni di stima seguite al discorso di Berlusconi in Senato mercoledì il nuovo clima bipartisan dei rapporti parlamentari. Oddio. Vedremo se dura. E comunque si tratta, a voler cercare il pelo nell'uovo, di una fermezza un po' barcollante, fondata con me su un'affermazione che, per quanto doverosamente ripetuta da tutti, nessuno riesce a prendere davvero sul serio, visto che sono in pochi a dubitare del fatto che difficilmente Giuliana Sgrena sarebbe stata liberata senza che una qualche somma passasse in un modo o nell'altro di mano. Ma quello che conta è il principio, e in casi come questi la politica italiana è sempre pronta a far finta di niente. Anche la fermezza di allora, quella dei tempi di Andreotti e Berlinguer, forse lo ricorderete, era soprattutto di facciata. E come ha avuto modo di ricordare lo stesso Andreotti in questi giorni, dietro quella facciata poteva succedere praticamente di tutto. Si trattava, diciamo così, di una fermezza ad escludendum, determinata essenzialmente dalla volontà di mantenere il gioco quanto possibile nelle proprie mani, escludendone outsider sgraditi o terzi incomodi vari, e a questa funzione adempiva benissimo. In quegli anni il ceto politico nel suo complesso si era preso una bella paura e aveva bisogno soprattutto di celebrare la solidarietà al proprio interno. Poi, per quanto riguardava le tecniche e le strategie con cui opporsi concretamente alle varie possibili minacce eversive, ammesso che ce ne fossero, il discorso era molto più aperto e ne vennero adottate in effetti le più diverse, manifestando per i problemi di fermezza e rigore morale un'indifferenza che a tanti anni di distanza continua ad apparirci scandalosa. Oggi la situazione naturalmente è diversa, ma è strana, ammetterete, la fretta con cui si è giunti in seguito alla chiusura dignitosa, ma non certo esaltante, del triste incidente in cui ha perso la vita Renato Calipari. È strana la fretta con cui si è giunto a modificare i protocolli verbali e comportamentali cui le forze politiche si affidavano da tutta una legislatura. In fondo, Berlusconi, per quanta buona volontà possa averci messo, non ha fatto niente di particolare. Convocare l'ambasciatore americano, esigere delle scuse formali senza peraltro ottenerle, poteva sembrare insolito per chi avesse sott'occhio i comportamenti passati del soggetto, ma era il minimo che qualsiasi governo potesse fare in quelle circostanze. E l'aver ottenuto dagli americani la partecipazione di 2 rappresentanti a una commissione d'inchiesta la cui direzione resta ben ferma nelle mani degli alti comandi statunitensi, non è a pensarci bene un risultato tanto eclatante. Quanto alle piacevolezze epistolari tra il caro Carlo e il caro George, è difficile considerarle qualcosa d'altro che un cortese scambio di banalità. Il vero problema era e resta quello della partecipazione italiana alla guerra e all'occupazione, una partecipazione che, oltre a essere ovviamente fonte di pericolo, sembra ormai essere assunta a causa principale dei mali che pretende di risolvere. E su questo piano il governo non ha detto né fatto assolutamente nulla. Sostenere che il Presidente del Consiglio ha attinto nell'occasione una nuova dignità da statista è una di quelle enfatizzazioni giornalistiche da cui ogni persona di buon senso, conoscendo il tipo, dovrebbe tenersi accuratamente alla larga. Berlusconi tuttavia ci ha messo della buona volontà e l'opposizione gliene ha dato atto. L'una e l'altra parte hanno compiuto uno sforzo di riconoscimento reciproco, le cui conseguenze, chissà, potranno cambiare il nostro quadro ideologico. Non saprei dirvi naturalmente se anche questa inedita forma di solidarietà nazionale non abbia lo scopo di escludere qualcuno, di sanzionare un'esclusività che si aveva ragione di sentire minacciata. Probabilmente no. Ma è certo che un bel po' di paura, quando si è saputo 10 giorni fa della sparatoria sulla strada dell'aeroporto di Baghdad, un bel po' di paura se la sono presa tutti. Dalla stessa paura che si rifletteva a botta caldissima sui fondi del quotidiano la mattina dopo, unificando nella stessa excusatio non petita le grandi testate del giornalismo locale e le loro firme più prestigiose. Era la paura dell'anti-americanismo, la paura dello scoppio irrazionale nell'opinione pubblica di un sentimento ostile verso questi nostri burbanzosi alleati, con la prospettiva agghiacciante del diffondersi a macchia d'olio del rifiuto di considerarli ancora tale. Calma e gesso, raccomandavano anticipatamente i Romano, gli Scalfari, i Galli della Loggia, senza che nessuna parte non fosse altro per motivi di tempo, senza che da nessuna parte si levasse il benché minimo fiato d'ostilità verso gli Stati Uniti. Ci hanno sparato addosso, ma non vuole dire niente. Teniamo i nervi a posto, protestiamo pure quanto vogliamo, facciamo pure le nostre inchieste, ma non lasciamoci prendere dalla tentazione dell'anti-americanismo. E si capisce. Quella, e non da oggi, è l'unica tentazione che il ceto politico italiano non si può permettere, perché sul rapporto con la potenza dominante ha fondato da sempre le proprie fortune e la propria legittimazione. È stato per questo probabilmente che il governo si è dato nei suoi limiti una mossa. Ed è per questo che il sistema giornalistico in blocco ha dedicato una settimana e mezzo a una serie di ingegnose variazioni sul concetto di tragico incidente, come se la ricostruzione dei particolari dell'episodio fosse più importante della riflessione sul suo significato. Perché in definitiva, a prescindere dalla velocità e dalle caratteristiche del mezzo che trasportava i nostri connazionali, del tipo di comunicazioni telefoniche che si hanno scambiato e con chi, del calibro e del numero dei colpi esplosi, dell'età e della competenza dei militari coinvolti e via dicendo, il dato importante è rappresentato esclusivamente dal fatto che quel tratto di strada era controllato dall'esercito americano, i cui responsabili per motivi di loro esclusiva pertinenza avevano disposto che in certe circostanze si sparasse. Che è un'ovvia conseguenza del fatto che in Iraq la guerra la fanno loro e non altri, con i loro obiettivi e secondo i propri criteri, criteri obiettivi cui chiunque accetti la situazione è tenuto a sottostare. Protestare per un episodio che ci ha coinvolti una volta che si è dato il proprio consenso all'operazione nel suo complesso è un esercizio di straordinaria futilità. Tanto è vero che la fermezza di cui parlavamo all'inizio si estrinsecherà stringi nella volontà di chiudere gli occhi. Stabilire, come ha dichiarato Berlusconi, che in Iraq non potrà in pratica andarci più nessuno se non sotto stretto controllo protettivo da parte dell'esercito, significa in primo luogo vietare ogni forma di giornalismo di guerra. Meno reportage giungeranno da quel paese, meno informazioni si avranno sulla condotta delle operazioni militari, meglio sarà per tutti. E basta già questo per capire che dalla tanto vantata commissione d'inchiesta non è proprio il caso d'aspettarsi un granché.